Prego il microfono. Posa. Posa. Si visto, prepara visto, posa. Vai. No. Posa, prepara. Vado io, va lui. Vai, vai. Vai, posa. Mandane una delle tue, vai. Onore al tuo leggente. Ok, arrivo in azione. Bianco e nero non c'è distinzione. Ah. Io vado avanti con gli stili mattanti. E in pose qua che mi faccio avanti. Ok, la mia rima sai che sta in tasca. No differenza per punk e un rasta. Per me è uguale, amico. Arrivo con lo stilo. Poi non fisco come un arbitro. È un casino qua perennemente. Voglio sentire il suono di questa gente. Fatemi sentire con le rime sulla mano. Fino a domani andiamo qua a Milano. Arrivo con lo stile sempre con le rime buone. Il verde a Milano è quello delle banconote. Per posa fate casino. 3, 2, 1.